Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Sono contento che iniziamo la puntata con un grande problema scientifico che è l'asciugamano. Sì. Però, e cosa ridete? L'abbiamo scelta noi questa cosa qua, no? Beh, sì. Sentiamo i titoli, poi iniziamo. Asciugandoci le mani in una toilette pubblica, quanto inquiniamo? Meglio usare la carta usa e getta, il rotolo di stoffa lavabile o i nuovissimi termoventilatori a getto rapido? Ce lo chiede Roberto, un nostro ascoltatore. Si aggiudica la copertina della prestigiosa Science un team internazionale con molti italiani. Hanno scoperto una nuova tecnica per costruire circuiti elettronici. Zahi Hawass, il funambolico archeologo egiziano, è caduto in disgrazia, travolto dalla primavera araba. Controllava tutti gli egittologi. Al via la 16ª edizione di Vedere la Scienza, il festival di film e documentari scientifici. Quest'anno il tema è il rapporto uomo-macchina, dalla cibernetica all'informatica. Allora, l'asciugamano, sono qui con Chiara, con Alberto, l'asciugamano. Beh, ma non l'asciugamano quello di stoffa. Anche quello. Asciugamano di stoffa, asciugamano di carta. Ma anche aria calda per asciugarsi le mani. E diciamo questo è un po' il punto, eh? Questo è un po' il punto, questo è un po' il quesito che ci è arrivato da Roberto, sentiamolo. Gentili signori, ecco la mia domanda. Tutte le volte che vado nelle varie toilette pubbliche, nel momento in cui vado ad asciugarmi le mani, trovo o l'asciugatore quello elettrico o il dispenser di carta oppure il dispenser quello con la stoffa, l'asciugamano di stoffa. Vorrei sapere quale di questi tre sistemi è il più economico dal punto di vista però come economia di produzione di CO2, quindi quello che può arrecare meno danni all'ambiente. Non è banale questione e non è stato neanche facile trovare l'esperto a cui rivolgersi. Insomma. Che c'è però? Che c'è? E allora aria calda o tovaglioli? Ci risponde Nicola Armaroli. Armaroli è chimico e dirigente del CNR di Bologna. Buonasera. Buonasera. E non solo, perché è esperto di questi problemi che ha trattato per esempio in un suo libro insieme a Vincenzo Balzani, Energia per l'astronave Terra, che esce in nuova edizione adesso per Zanichelli. Va bene, cosa ci può dire all'inizio? Dunque, la questione è piuttosto complessa. Ecco, uno studio che è stato fatto recentemente dall'MIT, quindi una delle più importanti università del mondo, ma diciamolo per dovere di cronaca, commissionato da un'azienda che produce asciugatori elettrici avanzati, quelli a più alta tecnologia, quelli che hanno il flusso in uscita a lama, come si suol dire. Quelli fortissimi che si trovano negli aeroporti. Esattamente, dove si infila la mano dentro alla mano. Che sono nuovissimi. Sono nuovissimi, sì. Non sono ancora molto diffusi, però appunto questo studio, che comunque è stato fatto oggettivamente molto bene, dimostra che questo tipo di dispositivi, questi appunto a lama, sono i più efficienti. Che tipo di studio è stato fatto? È stato fatto uno studio sul ciclo di vita. Cosa vuol dire? È un approccio molto complicato che permette di valutare tutti i carichi energetici ed ambientali relativi alla produzione di un determinato prodotto oppure a un determinato processo. Questo lo si può fare per qualsiasi tipo di tecnologia, di prodotto, eccetera. È stato fatto appunto anche su queste cose. Quindi è il cosiddetto approccio dalla culla alla tomba, cioè quanta energia costa a partire dalle materie prime utilizzate fino a quella che verrà utilizzata per smantellarlo, per farlo diventare un rifiuto definitivamente e magari riciclarlo. Ecco, da questo punto di vista sono stati confrontati appunto questi asciugatori di ultima generazione, degli asciugatori tradizionali, il rotolone di stoffa classico, quello che si trova, di cotone, quello tondo, che poi viene rilavato, e poi la carta, sia riciclata che vergine. Ecco, di gran lunga l'asciugatore potente è quello che consuma meno in termini di energia e quindi di tutto il ciclo, e quindi quello che produce meno CO2, mentre gli asciugatori standard, che hanno vari difetti, tra cui il primo è quello spesso di non spegnersi quando uno ha finito di asciugarsi. Infatti. Questo è vero. Il secondo è che hanno una potenza in realtà maggiore di questi qua, ma semplicemente perché l'aria è più diffusa, è più dispersa, e quindi sembrano meno potenti, ma in realtà consumano di più. Questi sono i peggiori. Poi avviene la carta, per quanto riguarda il consumo di energia, che sia riciclata o meno non fa una grandissima differenza. E poi se ne sprecano parecchi di questi fazzolettini, mi pare, quindi... Naturalmente tutto dipende da quanti ne consumiamo. Sì. Succede sempre. Succede che uno cade per terra, l'altro ne prende su troppi, insomma, no. Uno però non basta mai, di solito. No. Sì, qui il concetto però che deve passare secondo me è questo: noi dobbiamo renderci conto che tutti gli oggetti che consumiamo dietro hanno un enorme consumo di energia. Pensiamo appunto al fazzolettino di carta che usiamo nei bagni pubblici. Ecco, è stato tagliato un albero, è stato portato in una cartiera, questa è stata lavorata, è stata prodotta carta, la carta è stata trasportata nel luogo, in un magazzino, poi nel luogo di utilizzo, ma poi non è finita lì, perché poi viene messa nei rifiuti, viene raccolta, viene eventualmente o riciclata o messa in discarica o messa in inceneritore. Quindi anche questi cicli di vita che vengono studiati devono tenere conto di particolari criteri, si stabilisce all'inizio quali sono. Detta così sembrerebbe quello più a impatto, questo qui. Ma infatti è decisamente quello più impatto. Impattante. Ma l'asciugamano di stoffa non è una roba, si lava, no? Ecco, l'asciugamano di stoffa da questo studio risulta essere abbastanza valido dal punto di vista diciamo del consumo di energia, quindi la produzione di CO2 risulta essere al quarto posto. I primi due in realtà sono due modelli diversi di questi asciugatori a lama, e il consumo maggiore evidentemente c'è nel momento in cui viene lavato, quindi è il gas che viene utilizzato in lavanderia per scaldare l'acqua per lavare ad alta temperatura gli asciugamani che noi abbiamo. E lì casca l'asino. Quello forse è un po' il problema. E io aggiungo però una curiosità, che uno studio della Acoustic Society of America ha dimostrato che però questi asciugatori di nuova generazione sono più rumorosi di quelli vecchi. Inquinamento sonoro. Inquinamento sonoro, e quindi le aziende stanno già provvedendo a farli più silenziosi, però questo impedisce un po' i dialoghi all'interno della toilette, e si sa che gli scambi di idee alla macchinetta del caffè nel bar sono fondamentali anche per la scienza, non nella toilette. Gliel'abbiamo fatto dire anche questo. Anche questa volta. Ma è importante. Sta peggiorando. Va bene, siamo soddisfatti. Grazie mille Armaroli. Grazie. Grazie. Alla prossima, arrivederci. E agli ascoltatori diciamolo che ci possono raggiungere, possono mandarci le loro domande via mail tramite mebius@radio24.it, via Facebook Moebius Scienza, e poi anche sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Si va in Egitto con il quiz. Pronti? Via. Fra poco parleremo di uno strano personaggio, l'avete sentito nei titoli, Zahia Hawass, egittologo ma forse un po' più bravo come funambolo, il quale ha sostenuto più volte nella sua carriera di avere fra le mani grandi scoperte. Quali fra le tre che ora vi dico è stata da lui effettivamente sostenuta come imminente? La prima, l'esistenza di un tesoro sotto la piramide di Cheope, ci scriverete Cheope. Oppure la tomba di Antonio e Cleopatra, ci scriverete tomba. E infine l'esistenza di prove certe di un viaggio di Gesù nella Valle dei Re, e ci scriverete viaggio. Lo farete con il solito SMS 349-238-6666, e il libro che si vince questa settimana è L'ombra dell'uomo di Jane Goodall, Orme Editori, e questo libro è offerto come sempre da Librerie Rizzoli. Ha conquistato la copertina della prestigiosissima rivista Science, una innovazione nel campo dell'elettronica che potrebbe essere di enorme rilievo nei prossimi anni. Per parlare di questa scoperta, insomma, di questo salto innovativo consistente, ho qui con me questa sera Leo Miglio. Buonasera Miglio. Buonasera. Dell'Università Milano Bicocca, esattamente di quale dipartimento? Il Dipartimento di Scienza dei Materiali. Scienza dei Materiali, e infatti con questo ha a che vedere quello che voi avete fatto. Non c'è solo Milano Bicocca, ci sono degli altri partner, ce li dice? Senz'altro, diciamo, c'è il Politecnico di Milano, diciamo, con questo centro, il NES congiunto che abbiamo costituito con Bicocca, e c'è il Politecnico di Zurigo, e infine il Centro Svizzero per l'Elettronica e la Microtecnica, che sta a Neuchâtel. Bene, senta, noi anche nei titoli, ma anche adesso, insomma, ricordando in apertura di questa intervista che cosa avete fatto, io ho detto si tratta di un'innovazione che ha a che vedere con la costruzione, la produzione di circuiti elettronici, quindi con qualcosa che praticamente ci circonda da diversi anni e continuerà ad essere intorno a noi sempre di più. Vogliamo provare a dare una definizione generale, poi cerchiamo di entrare in alcuni aspetti specifici che possono spiegare cosa avete ottenuto. Certo, volentieri. L'elettronica, cioè le solari, diciamo, gran parte dei dispositivi che abbiamo in testa sono fatti a base di silicio, almeno finora, che è un materiale abbondante, ben conosciuto, poco costoso, con delle prestazioni ovviamente limitate. per migliorare questo si cerca di mettere sopra il silicio dei sottili strati di semiconduttori più performanti che possono migliorare le prestazioni. Questo è il contesto generale, sì, dica pure. Certo, purtroppo spalmare sopra, tanto per dirla, questi semiconduttori non è semplicissimo, si fa con tecniche che si dicono di epitassia, cioè di ordinamento superficiale, si cerca di impilare al meglio questi atomi di materiali diversi sopra il silicio. Adesso proviamo a entrare, Emilio, immaginiamo di riuscire a scendere nei micron e quindi di trovarci su una pavimentazione liscia, no? Che è il supporto di silicio sul quale vengono innestate le costruzioni, insomma, i circuiti, immaginiamoceli come l'architettura di una città. Qui il problema al quale lei accennava poco fa è che bisogna costruire nel modo più efficiente queste strutture, che naturalmente non sono, no, come sono i mattoni molto materiali o i pezzi di legno o di ferro degli edifici, vengono aggregate in un modo, come potremmo dire, molle, insomma, inizialmente, poi si solidificano, ma com'è che avviene questa costruzione? Certo, perché il processo di deposizione è fatto ovviamente a delle temperature abbastanza elevate, centinaia di gradi, fino a qualche migliaio di gradi, dipende, diciamo, dal materiale, e diciamo che il processo di deposizione è un po' come quando si cerca di impilare su un cono gelato un certo numero di palline di gelato. Se lo si fa abbastanza velocemente e a temperature non troppo elevate, riesce a fare una bella pila di palline, o se no il gelato comincia a squagliarsi e a colare lungo il cono, cosa che uno non vuole. Qui siamo già entrati in uno dei due aspetti che riguardano la soluzione che voi avete trovato, cioè voi siete riusciti a trovare un modo per cui, seguiamo l'esempio delle palline, Non colano lateralmente, non si viene a creare una colata unica. Esatto, non si viene a colare una colata unica, perché la colata unica, diciamo uno strato continuo sul substrato di silicio, provocherebbe dei grossi problemi legati al differente coefficiente di espansione con la temperatura che hanno i materiali. Per cui alla fine, quando uno tira fuori il wafer e lo porta a una temperatura ambiente, il film che uno ha cresciuto, se lo ha cresciuto in maniera continua, si ritrae di una misura diversa rispetto al substrato, e quello che succede è che il tutto si incurva, si formano dei cracks, delle vere e proprie rotture, che sono proprio un disastro. Dobbiamo proprio pensare al fatto che è un edificio di più piani che deve essere costruito nel modo più lineare possibile. Certo, quello che noi abbiamo fatto è immaginare di intagliare nel substrato di silicio una serie di pilastri molto alti e di immaginiamo che siano i nostri coni, diciamo, su cui noi abbiamo depositato le famose palline di gelato, il materiale semiconduttore, in questo caso germanio. L'abbiamo fatto con un'attrezzatura che permette alte velocità, quindi non fa tempo a colare lungo il pilastro il materiale che abbiamo messo. E impilandosi in questo modo otteniamo una serie di torri che vengono a essere accostate vicine vicine, 50 nanometri l'una all'altra, e in questo modo si riempie tutta la superficie come se fosse un film continuo, ma in realtà il film non è continuo. Abbiamo lasciato un piccolo spazio tra l'uno e l'altro, più o meno come le rotaie del treno lasciano un piccolo spazio per far sì che l'escursione termica tra l'estate e l'inverno non provochi dei disagi. Questi edifici devono avere una loro duttilità, una loro elasticità, quindi avete adottato il sistema, appunto, come anche i ponti, no? Che hanno delle fessure che consentono elasticità alla struttura, perché se fossero un tutt'uno sarebbe una rigidità negativa. Senz'altro, perché diciamo la possibilità di lasciare espandere sia durante la crescita che poi nelle fasi di raffreddamento, e ricordiamoci anche nell'esercizio, diciamo, di certi dispositivi, la possibilità quindi di evitare espansioni diverse tra il film e il substrato è importante. Come si fa a dare questo agio? Gli si lascia lo spazio tra un blocco e l'altro. Questi blocchi possono essere di qualche micron, potrebbero essere anche sotto il micron o sopra, diciamo, la decina di micron, dipende un pochino dalle applicazioni che poi si vogliono realizzare con questi blocchi che abbiamo costruito. In particolare, Emilio, in che tipo di applicazioni questa nuova tecnica può essere particolarmente efficiente, efficace? Ci sono per esempio celle fotovoltaiche a giunzione multipla per dare energia ai satelliti, possono essere detector per imaging di raggi X, cioè dispositivi che permettono di rilevare immagini anche per uso medicale da raggi X. In questo caso ovviamente ci sono innovazioni particolarmente rilevanti con questa tecnologia. E infine dispositivi elettronici di potenza, cioè tutti quei transistor, diciamo, quegli interruttori, come vengono detti, diciamo, che sono quelli che permettono di gestire potenze elettriche di un certo rilievo, come quelle che sono nel campo dell'automotive, cioè delle automobili, e nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sembra impossibile, ma si riesce a lavorare in modo così sofisticato anche a quelle dimensioni ridottissime. Bene, Emilio, credo che siamo riusciti a dare un'idea di come questa innovazione può avere degli effetti grossi di efficienza nella costruzione dei circuiti. Io la ringrazio e buon lavoro. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci qua, siamo arrivati a Zahia Hawass, egittologo, funambolico, come avete sentito dai titoli, come vi dicevo anche poco fa, prima della pausa, e per parlare di Zahia Hawass ho qui con me ospite questa sera Alessandro Roccati. Buonasera Roccati. E buonasera. Attualmente membro dell'Accademia delle Scienze, però lei ha insegnato a lungo egittologia sia alla Sapienza di Roma che a Torino e ha fatto diverse esperienze sul campo, insomma, di scavi in Egitto. Allora, Zahia Hawass è stato un po' il deus ex machina di tutto ciò che era l'egittologia lì in loco, in questo grande territorio archeologico che è stato l'Egitto. Adesso è caduto in disgrazia perché a quanto pare era strettamente legato al potere, quindi a Mubarak, e certo con la primavera araba è scomparso. Credo che stia facendo ancora cose, ma insomma non ha più quelle responsabilità che vedremo fra poco e che lei un po' ci racconterà. Però Roccati, io vorrei raccontarle, per introdurre questa cosa, un'esperienza che abbiamo avuto direttamente noi come Mebius, perché 2 anni fa abbiamo cercato di raggiungerlo per una intervista e l'abbiamo trovato sul cellulare. È stato difficilissimo contattarlo, poi a un certo momento era su un'automobile, ci disse: sto per andare a una riunione importantissima al ministero, anche perché ho poco tempo, e domani mattina ci apprestiamo, come dire, a superare gli ultimi 10 metri per trovare la tomba di Antonio e Cleopatra, che insomma, voglio dire, come scoperta non è delle poche. A quanto pare questo personaggio era, come dire, noto per dichiarazioni di questo genere, no? Esplosive, e poi che però non portarono mai niente a concreto. O l'avete scoperta la tomba di Antonio Cleopatra, non ce l'avete detto? Certamente no, tutto questo sembra un po' la parodia della scoperta della tomba di Tutankhamen, che ci fu una grande scoperta. Quella era vera. Sì. Lui era così. Dunque, il personaggio Zahia Hawass è una figura complessa e certamente è stato un rinnovatore della struttura delle antichità egiziane e quindi ha molti meriti. Qualche merito c'era, ho capito. Sì, direi anche molti, perché dopo la rivoluzione, insomma quella che ha portato al potere Nasser, le antichità egiziane non erano particolarmente considerate, erano un po' la cenerentola del sistema economico egiziano, e praticamente messe in mano ad una burocrazia complessa che non aveva un'attenzione e neanche una consapevolezza della loro importanza. Con Zahia Hawass la situazione si capovolse. Innanzitutto è un grande organizzatore, quindi allestisce degli ingressi, delle possibilità di visita, delle strutture per favorire l'accesso ai monumenti, mette anche naturalmente dei prezzi nuovi, organizza diciamo uno staff di collaboratori che sono consapevoli e attivi, sia pure dipendenti dai suoi ordini, insomma, e nello stesso tempo lo rivaluta con un certo orgoglio nazionale di quasi antico egiziano. Dall'altra parte, naturalmente, proprio per quello che è richiesto non soltanto in Egitto, ma anzi ingrandendo in un certo senso il fenomeno, si presenta come il personaggio che è stato portato alla ribalta del film di Spielberg, cioè l'Indiana Jones, quello che fa continue scoperte, un personaggio avventuroso. Ecco, però che le spara anche un po' grosse. Che non avrebbe... No, il fatto è questo, non solo le spara grosse, ma direi non spara per nulla delle cose nuove, perché in pratica le scoperte annunciate, anche e poi mai avvenute ovviamente, sono quelle scontate, quelle che tutti sperano di fare, ma la scoperta vera, quella che non è conosciuta, quella che non si sa quale sarà e forse più grande delle attese, quella non c'è mai, non solo nella realtà, ma neanche nelle proposte, nella fantasia. Quindi sì, sta il suo grande limite, cioè quello di avere montato, anche sotto quest'altro aspetto, con la sua abilità organizzativa, una macchina pubblicistica che naturalmente è finalizzata a avere un beneficio economico, beneficio che si ottiene tanto più quanto si organizza una specie di monopolio della notizia, un monopolio delle attività archeologiche a cui sottopone poi tra l'altro le missioni straniere che arrivano lì. Infatti, ecco, però oddio, questa della tomba di Antonio Cleopatra era abbastanza grossa, non so se tra gli archeologi era una ricerca tanti anni che si cercava un oggetto di questo genere, oppure nessuno ci pensava? Certo, no, tutti ci hanno pensato. Tutti ci hanno... Direi è una specie di assillo, però è la tomba introvabile, perché se non ci sono tanti oggetti del desiderio, per così dire, che guidano, non è l'unica, e certamente sarebbe un grosso colpo. Però cioè lui trasformava i sogni in cose imminenti. Esattamente, in cose imminenti. Sogni che qualche volta si avverano pure, no? Come la scoperta di un faraone, dicevamo, Tutankhamen, però non possiamo programmarli, tantomeno, per così dire, prepararli, preconizzarli. Devo dire che quello che lei appunto ci sta raccontando è assolutamente confermato, perché andando al suo sito cercate Hawass, HAWAS, Hawass, e beh, insomma, in copertina appare lui ed è proprio vestito da Indiana Jones, cioè col cappellone largo, la camicia con tante tasche, proprio così. Io so però, Roccati, che lei ha, e probabilmente non solo lei, insomma, avete anche una certa idea di questo tipo di personaggio un po' spettacolare, un po' l'Indiana Jones, come un problema dell'archeologia contemporanea. Ma direi, purtroppo, non vorrei dire un'esigenza, ma alla fine, per riuscire ad avere successo nelle proprie attività, in qualche modo anche ad attirare l'attenzione delle autorità, quindi per finanziare, e questo non è così solo da ieri, ma direi è sempre stato così, è necessario, per così dire, spararle grosse, far vedere che si fanno delle grandi scoperte, cioè puntare sul sensazionalismo. Naturalmente io non sono tra quelli che approvano questo modo di fare, anche perché ha degli effetti controproducenti, però è sicuramente una delle le procedure, insomma, che noi incontriamo più regolarmente. La vera scoperta, quella che si consegue dopo anni di silenziose ricerche e che spesso è veramente grande, rischia a volte di passare sotto silenzio. Quindi lei dice, essendo l'archeologia una scienza, questo è vero, l'abbiamo detto altre volte in onda, una scienza che è certamente molto povera e non riesce ad ottenere, diciamo, ad avere l'impatto per quanto riguarda i fondi che in fondo potrebbe avere, lei dice c'è bisogno di enfatizzare gli obiettivi, insomma, e solo così si può ottenere attenzione, anche se però appunto magari pure attraverso cose come Indiana Jones una certa sensibilità nel largo pubblico rispetto a queste cose, queste scoperte, queste... c'è, esiste. Sì, ovviamente, però è questo direi il grosso pericolo nel quale purtroppo stiamo cadendo anche in Italia, si punta tutto sullo spettacolo, sulla spettacolarità e non sulla ricerca che muove da premesse naturalmente che coltivano delle ampie conoscenze e che poi portano davvero a dei risultati nuovi. E per così dire un risultato preconfezionato, no? È come quando si preparava una tomba da aprire giusto per la visita di qualche regnante o di qualche personalità, sì, come si faceva in passato. Sì. Così c'era sempre la novità della scoperta dell'ultimo momento, che poi era invece qualcosa di assolutamente precotto. Certo, ma lei ci sta dicendo che in pratica, dovendo scegliere tra obiettivi diversi, alcuni dei quali magari meno spettacolari ma tremendamente importanti per i risultati che possono dare, oggi si tende invece a prendere magari un obiettivo secondario dal punto di vista della ricerca, ma più appealing, no? Più affascinante dal punto di vista mediatico, in un certo senso. Purtroppo sì, si ed fa è così. Difficile riuscire a coniugare le due cose, cioè ad adoperare, per così dire, il fascino della scoperta con la ricerca, quella autentica. Questa è una situazione che lei vede abbastanza a livello internazionale, non è una cosa che ci sta dicendo rispetto alla realtà di ricerca italiana. No, no, no, questo assolutamente nel panorama generale. Bisognerebbe appunto riuscire a, oltre che a scegliere le persone di valore, quindi il discorso meritocratico, dall'altra parte anche fornire effettivi mezzi di operatività e rendere un po' più liberi dall'assillo, insomma, del non fare nulla oppure di fare delle spiritose invenzioni, ecco. Bene Roccati, la ringrazio per questo suo racconto e magari seguiremo AWAS per vedere se ritorna in auge da qualche altra parte, magari come attore, che ne so. Benissimo, oramai certamente ha raggiunto anche gli anni della pensione, anche lui, indipendentemente dalle rivoluzioni, ma insomma è stato comunque una figura importante. Grazie, arrivederci. Buonasera. Ascoltatori e ascoltatrici che avete a che fare con la CO2 in Emilia-Romagna, forse pensate che siamo diventati pazzi, ma non è così, ascoltatemi. Un mese in Emilia-Romagna, un mese all'estero, obiettivo, sviluppare innovazioni per ridurre le emissioni di CO2. L'opportunità è il programma europeo Pioneers into Practice ed è offerta da Climate KIC e sviluppata dal consorzio Aster che riunisce le quattro università dell'Emilia-Romagna. Il programma è giunto alla seconda edizione e si pone l'obiettivo di creare una nuova generazione di innovatori che abbiano la capacità di gestire la trasformazione verso una società a ridotte emissioni di CO2. Il programma in Pioneers into Practice si rivolge a tutte le imprese, agenzie, enti di ricerca, università, anche enti pubblici che operano a vario titolo nel campo del cambiamento climatico in Emilia-Romagna. Enti e imprese hanno la possibilità di far partecipare, questo è il punto, il proprio personale ha un'esperienza altamente formativa e in aggiunta oppure in alternativa di ospitare profili fortemente motivati con un ampio diversificato bagaglio di competenze, conoscenze ed esperienze, costruzione ad alta efficienza energetica, produzione energetica a basse emissioni, gestione dell'acqua, veicoli elettrici, mobilità sostenibile. Il programma prevede due periodi di lavoro, apprendimento della durata di un mese ciascuno presso strutture operanti nelle regioni partner, il primo in Emilia-Romagna e il secondo all'estero. Per avere informazioni dettagliate e aderire a questo programma bisogna fare un po' in fretta perché scade fra una decina di giorni e bisogna andare al sito www.aster.it e lì vedrete che a un certo momento si cita Pioneers, Pioneers, cliccate e troverete tutte le istruzioni. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Tornano le rondini. E torna anche a vedere la scienza. Come ogni anno. Un po' come la primavera. Per fortuna che tornano, perché insomma di questi tempi, motivo di crisi, motivo di tagli, però almeno il festival del film e del documentario scientifico in Italia rimane. Allora, insomma, diamo subito il benvenuto alla curatrice della rassegna di questo festival che si chiama Vedere la Scienza, Antonella Testa. Buonasera, Antonella. Un saluto a voi e agli ascoltatori. Buonasera, Antonella. Ecco, 16ª edizione, ben detto. Sono Siamo tante. Molto contenti di invitarti ogni anno a raccontare raccontarci questa rassegna che si tiene a Milano a partire dal 26 marzo, quindi ci siamo, fino al 1 di aprile, più c'è un appuntamento il 3 di aprile dove appunto farete sentire e farete vedere i documentari vincitori della rassegna, corretto? Esattamente. Siete a Milano, quindi gli spazi che occupate sono lo spazio Oberdan, che è in Porta Venezia, e la Mediateca Santa Teresa in via Moscova 28. Ecco, la cosa interessante appunto è che voi sfrugugliate tutto l'anno nelle produzioni cinematografiche e quant'altro, appunto, che hanno a che fare con la scienza. E quest'anno qual è il tema che avete deciso di approfondire? Quest'anno è stata difficile la scelta perché era l'anno delle energie sostenibili, ma noi abbiamo scelto un argomento meno battuto, che è il centenario della nascita di Alan Turing, personaggio poco noto al grande pubblico ma uno dei padri fondatori dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, quindi valeva la pena di solcare questa occasione per parlare del rapporto tra l'uomo e le macchine, che è un tema che è carissimo al cinema. E a proposito di questo, sentiamo lo spezzone che ci ha inviato di Enigma, il film che è ispirato alla vita di Alan Turing, il quale ebbe un ruolo fondamentale nel decodificare il sistema di comunicazione dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Voi avete idea di cosa state parlando? Tom è stato via un mese per malattia, perciò credo che non abbia ben Enigma. Chiaro. È un sistema di cifrario molto sofisticato e Squalo è il suo massimo perfezionamento. Perciò, qui non si tratta dei cruciverba del Times. La macchina Enigma. I tedeschi ne hanno a migliaia. Che cosa fa? Converte un testo normale in un guazzabuglio. Poi il guazzabuglio viene trasmesso in morse. Il ricevente ha un'altra macchina Enigma che lo riconverte nel messaggio originale. Il problema è che questa macchina ha 150 milioni di milioni di milioni di permutazioni diverse, a seconda di come si regolano i tre rotori e di come si collegano le spine. Cristo santo. Io non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente. Vabbè, insomma, questo qui era un pezzettino tratto appunto dal film Enigma. C'è ecco. Chi dice che, insomma, la Seconda Guerra Mondiale è andata come è andata grazie ad Alan Turing, di cui c'è il centenario della nascita, eh? Eh sì. Quest'anno. E poi Antonella. Sì. Adesso ci spostiamo. Faccio notare, tra l'altro, che questo film è prodotto da Mick Jagger, quindi questa curiosità. Questo non lo sapevo. La sceneggiatura è di Tom Stoppard, un altro personaggio che ha scritto sceneggiature come Rosencrantz e Guildenstern, quindi è un film poco noto che però ha molti, molti spunti. Personaggi alle spalle. Sì, assolutamente. E ora andiamo in Italia. Ora andiamo in Italia perché questo era un po', come dire, il film che lanciava la rassegna che dedicata tutto al rapporto uomo-macchine, dove ci sono anche altri filmoni di altri registi, che so, Intelligenza Artificiale, piuttosto che Blade Runner, Metropolis di Lang, quello del 1927, che sarà con accompagnamento musicale dal vivo al pianoforte, e poi avremo anche una piccola porzione di questo tema uomo-macchine nella programmazione diurna del festival. E qui abbiamo il nostro Olivetti. Perché dimenticarlo? Pochissime persone negli anni 50 immaginavano i computer come qualcosa che un giorno avremmo avuto tutti. Questa è la storia di tre geniali inventori. Però tutto era qua, c'ero io. Poi dietro c'era Garzira, che non assomiglia a Padre Pio come adesso. Guarda qua, la programma 101, ragazzi, questo qui è il mito. Un gruppo di pionieri italiani che 15 anni prima di Steve Jobs e Bill Gates ha aperto la strada alla più grande rivoluzione del nostro tempo. Ovunque andiamo abbiamo con noi un computer, abbiamo gli smartphone, ma l'idea di un computer nella camera dei bambini, in cucina, accanto al tuo letto, era veramente una profezia visionaria 50 anni fa. Da qui è cominciata tutta la storia dei personal computer. Programma 101, sì, proprio sì, il primo computer proprio agli albori. Sniff lacrimuccia perché eravamo i primi al mondo. Sì. Eh sì, tra l'altro il film racconta la storia in maniera molto appassionante, mi permetto anche di dire che è un film italiano, abbiamo una bella occasione anche di valorizzare i pochi titoli scientifici prodotti in Italia. E ora Antonella, rimaniamo in Italia con un personaggio invece attualissimo, una donna, una ricercatrice, una scienziata di grandissimo successo, Ilaria Capua. Sì, perché come consuetudine nel festival ci occupiamo di tante tematiche oltre al tema principale, e nell'ambito delle scienze della vita, delle scienze della salute, c'è questo personaggio, Ilaria Capua, che ci è piaciuto molto attraverso questo film italiano. Viene un pochino ripercorsa questa figura di una donna che ha deciso di andare contro gli schemi. Lei ha codificato il gene di una forma di aviaria. Ricorderete tutti che insomma nel corso di qualche anno, tra il 98 e il 2006, ci sono state epidemie di aviaria. Lei ha codificato questo gene e ha deciso, invece di aspettare, secondo le consuetudini scientifiche, la pubblicazione su una rivista dopo il referaggio, insomma procedimenti lunghi, lei ha deciso di mettere tutto in rete, di rendere immediatamente disponibile. Immediatamente pubblico? Sì, immediatamente pubblico, il risultato della sua ricerca. In una settimana l'hanno scaricato in 1000 laboratori in tutto il mondo, e questo andare contro lo status quo le ha prodotto la fama internazionale. Lei è ritenuta una tra i 50 scienziati più importanti al mondo, secondo Scientific American, certo. E riconosciuta come una revolutionary mind dalla rivista SID. Nel 2011 ha vinto poi quello che può essere definito il Nobel per la veterinaria, il Penn Vet Award, proprio per la rilevanza delle sue ricerche. Certo, perché grazie al suo studio e grazie alla velocità con la quale lei l'ha messo in rete, sono poi riusciti a codificare e produrre rimedi. E allora sentiamola, Ilaria Capua, nel spezzone che ci hai mandato di Revolutionary Mind. Forse un po' per natura sono una che esce un po' dal seminato e mi piace sfidare i dogmi, e mi piace thinking out of the box, quindi pensare, insomma, non secondo gli schemi preordinati. Cioè, quello che io ho fatto è qualcosa, secondo me, non di straordinario ma di normale. Cioè, per risolvere determinati problemi bisogna arrivare a capire che quello è un problema e quindi ad analizzare che cosa è che non va nello status quo. Antonella, tantissimi temi di questa nuova edizione. Dove possiamo trovare tutto il programma completo del festival, del vostro festival che sta per iniziare? Lo trovate sul sito web che è www.brera.unimi.it/festival, oppure mettendo magari in un motore di ricerca vedere la scienza, La scienza festival, lo trovate subito. Va bene, in bocca al lupo, e allora aspettiamo la 17ª questa volta. Speriamo. Al prossimo anno, ciao. Grazie, ciao. Sono al telefono in linea con Manuela Croatto. Buonasera, Croatto. Buonasera. Responsabile promozione e iniziative esterne dell'Università di Udine, ma anche inventrice, perché è un'idea sua, della Startup per, com'è la definizione esatta? Startup Young. Young, giovani. Young, giovani, sì. Allora, è un'idea che parte dall'Università di Udine, ma sta lentamente dilagando anche in altri atenei, e quindi è per questo che ne parliamo, perché è una vostra proposta a carattere nazionale. Startup mi rimanda a cose che riguardano innovazioni, idee nuove, ma comunque ci dica lei com'è che è questo nuovo progetto. Effettivamente il modulo si rifà a quelle che sono le Business Gap Plan Competition che abbiamo importato in Italia dall'America fin dagli inizi degli anni 2000, sì. Nelle quali l'Università di Udine, come tante altre università italiane, si è cimentata con successo da molti anni. Sono appuntamenti nei quali soprattutto giovani ricercatori producono idee che possono avere applicazioni concrete, entrare nel mercato. Sì, appunto, che sono destinate a diventare imprese. Esatto. La nostra è una variante, si chiama Young per questo, perché è rivolta ai ragazzi delle scuole superiori del territorio. E l'obiettivo è in qualche modo di mettere in moto il grande potenziale innovativo e creativo che c'è nelle nostre scuole e che spesso è in qualche modo confinato nell'ambito di quelle che sono le attività scolastiche normali. Mm-hmm. I ragazzi sono abituati a studiare quello che gli insegnanti gli dicono e a imparare quello che gli insegnanti gli spiegano, e devono poi arrivare all'università a fare un percorso anche un po' di auto così formazione per mettersi in gioco e per metterci qualcosa di proprio. Ecco, la nostra idea è che comincino a farlo nel momento in cui hanno anche una potenzialità maggiore, cioè durante gli anni delle scuole superiori. Cioè li chiamate a produrre delle idee, immagino che non chiediate loro di avere delle idee sviluppate fino in fondo, ma di individuare un progetto. A loro chiediamo fondamentalmente l'idea e che sia in qualche modo sostenibile. Poi dopo i dottorandi di ricerca delle università li affiancano per colmare gli inevitabili gap tecnologici che i ragazzi possono avere. Cioè gli create voi questo contatto con l'università? Sì, assolutamente. Ah. Gli diamo un tutor che appunto è un dottorando di ricerca che li aiuta e in questo modo anche li introduce nel mondo dell'università. È una sorta anche di un'attività di orientamento, perché in questo modo riescono a capire se quello che loro immaginano di fare all'università corrisponde a quello che effettivamente poi si fa, e lo fanno chiacchierando con una persona che ha 5-6 anni più di loro, non con un professore, con un gestore. Ecco, allora se immaginiamo che in questo momento ci siano in ascolto insegnanti come anche studenti di scuole medie superiori italiane, cosa devono fare? Siccome è una gara, è una gara innovative, e noi nell'ambito di questa gara li sollecitiamo a guardarsi attorno e a pensare a come sarebbe migliore la loro città se avessero un'idea di miglioramento, per cui l'incipit del progetto è guardatevi attorno e immaginate come sarebbe l'ambiente che vi circonda, se la fabbrica o la caserma dismessa non fossero abbandonate, se l'affresco sul palazzo davanti alla fermata del bus fosse leggibile o se lo spazio in cui vivete fosse più funzionale, no? Gli chiediamo e provate a vedere se quello che avete immaginato si può realizzare e come. Ecco, quando hanno fatto questa cosa, si sono iscritti, eccetera, possono vincere un premio, e il premio è l'iscrizione gratuita all'università. Insomma, un premio che comincia a essere significativo. Ma per iscriversi c'è un sito? Sì, allora, io posso dare il sito dell'Università di Udine, poi so che altre università, l'ultima che mi ha contattato è l'Università di Foggia, stanno partendo in questo momento. E per quanto riguarda il sito dell'Università di Udine, basta andare sulla home page, c'è un bel banner grande, Startup Young, e quindi www.new.it. E poi dopo c'è un percorso di accompagnamento, noi assistiamo i ragazzi anche nelle ore serali attraverso un contatto Skype, perché non vogliamo interferire con le attività scolastiche. Uno ci può chiamare alle 9 di sera, dice io vorrei fare questa cosa e noi siamo disponibili. Okay. E c'è ovviamente una pagina Facebook Startup che segue la cosa. Però per avere un po' di informazioni generali possono anche fare riferimento a voi, poi gli date una mano. Sono anche insegnanti, eccetera. Noi abbiamo proprio preparato una sorta di back office, un kit per le scuole che vogliono partire, per le università che vogliono partire, dove ci mettiamo il regolamento, tutto dal logo alle lettere di richiesta del patrocinio. Ecco, a questo proposito segnalo che il Ministero dei Beni Culturali, il Ministro Ornaghi, ha concesso il patrocinio a questa iniziativa, ritenendola quindi meritevole di un'attenzione speciale. Quindi ha un imprimatur nazionale. Bene, grazie Croatto. Sul nostro sito troveranno delle indicazioni per avere, per avere grazie i dati che rimandano al vostro web. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Buonasera, grazie. Cosa posso dire in 5 secondi, che è tutto quello che abbiamo? Buona settimana e tornate qui da noi fra 7 giorni.